in questo martedì mattina molto solitario e vi presento di nuovo Letture, che è il programma che abbiamo, in cui diamo spazio a tutti e tutte per leggere libri bellissimi. Io in questo momento tengo i Nirvana in sottofondo, non a caso, non è la prima volta, perché mi ostino ad andare avanti a leggere William Seward Burroughs, e il signor Burroughs aveva un rapporto di amicizia molto intenso con Kurt Cobain. Addirittura Kurt scompare nel momento in cui William Burroughs è ancora vivo e molto anziano. Ci sono delle foto che potete trovare online in cui sono insieme in perfetta sintonia, anche sia a livello artistico, musicale, ma anche amicale. E quindi torniamo sulle pagine di Le città della notte rossa, edito da Elliot Edizioni. William Seward Burroughs, alla fine della sua carriera, crea questo trittico fantastico in cui combina storie di pirati, fantascienza, navi spaziali e un sacco di credenze maya, credenze popolari antiche. In questo caso il tema centrale è il virus e la metafora è il linguaggio umano come virus. Ci addentriamo in quello che è il capitolo che si chiama Libera Uscita, lo trovate a pagina 63 dell'edizione che ho tra le mani, e il rumore delle pagine sfogliate nel microfono è sempre molto interessante. Quindi a voi, Smack Like the Spirit che sta completando, e poi iniziamo col capitolo Libera Uscita. febbraio 1702. Per qualche motivo non faremo scalo a Charleston come nei piani. Il clima è sempre più mite ogni giorno. I gemelli De Fuentes adesso vanno in giro per il ponte e si interessano al lavoro e alle parti della nave. Tutto quello che dicono sembra avere uno scopo nascosto. Juan mi ha fatto molte domande sul mio lavoro di armaiolo. Sarebbe possibile sparare frecce con un fucile? Ho risposto di sì e di colpo ho visto un'immagine di indiani che attaccano un insediamento con frecce intrise di pece ardente. Non riesco a ricordare dove ho già visto questa immagine, probabilmente a Boston. Mentre l'immagine mi attraversa la mente come un lampo, Juan ha annuito e sorriso e se n'è andato. Sua sorella gemella ha i modi diretti di un uomo e nessuno dei toni leziosi e melensi che si trovano abitualmente tra quelle del suo sesso. In ogni caso, le blandizie femminili cadrebbero qui su terreno arido. Eppure devo confessare di essere più attratto da lei che da qualsiasi donna che abbia mai visto. 13 febbraio 1702. Venti buoni e bel tempo continuano. Non abbiamo più bisogno dei nostri giacconi. 14 febbraio 1702. Siamo adesso al largo della costa della Florida e vediamo quasi sempre terra, perché ci sono molte isole. I delfini saltano intorno alla prua e i pesci volanti si sparpagliano davanti a noi in casche argentee. Adesso possiamo lavorare senza la camicia, ma Mr. Thomas ci ha avvertito di fare attenzione alle scottature solari e di esporci solo qualche minuto per volta. Il capitano Jones appare sul ponte a scrutare le isole attraverso il cannocchiale. Credo che progetti di fermarsi a una delle isole per l'acqua fresca e le provviste. 15 febbraio 1702. Malgrado i consigli di Mr. Thomas, sia Bert che io abbiamo delle scottature dolorose dalla vita in su, a causa della nostra carnagione molto chiara, mentre Clinch, Sean e Paco sono immuni. Billy, Guy e Adam non si tolgono mai la camicia. Charlie Lee, il cuoco, ha una certa abilità come medico, anche se è un tironcino vero e proprio. Ci ha dato un unguento da strofinare sul corpo, ci ha procurato notevole sollievo e abbiamo tutti e due preso qualche goccia di tintura doppio. Adam me ne ha data una boccetta e mi ha mostrato come misurare la dose giusta. Mi ha detto che le dose che prende lui ci farebbe star male da morire e potrebbe essere addirittura letale. 16 febbraio 1702. Sono guarito dalle scottature e il mio corpo sta cominciando a prendere una abbronzatura protettiva. Stamattina ci siamo radunati tutti al parapetto per assistere a un gran movimento nell'acqua e alcune centinaia di metri più avanti, causato dagli sgombri che saltavano per sfuggire ai pesci più grossi. Mr. Thomas ha dato l'ordine di abbassare le vele e ha distribuito arpioni da pesca con cucchiaino e uncini tripli. In poco tempo una quantità di grossi pesci si è abbattuta sul ponte. Questi pesci sono chiamati coda gialla e sono molto pregiati per la tavola. Abbiamo da fare e pulire il pesce. Che cosa abbiamo imparato dalla nostra esperienza sui grandi laghi? Alcuni sono tenuti per uso immediato e gli altri salati e messi via. Dopo aver lavato via il sangue dal ponte, abbiamo alzato le vele e continuato sulla nostra rotta. Il pesce fritto ha procurato un cambiamento molto gradito dopo una dieta di merluzzo salato e gallette, anche se il sapore non è delicato come quello del pesce d'acqua dolce. 18 febbraio 1702. Ho sognato stamattina di essere in un grande laboratorio con arnesi, una fucina e parti di fucile sparpagliate su un banco. Stavo ispezionando un fucile con un certo numero di canne saldate insieme. Stavo cercando di arrivare a un sistema per far fuoco con le canne in sequenza. Juan stava dietro me, di fianco. Ha indicato una ruota di ferro con una maniglia e ha detto qualcosa che non ho capito subito, perché in quel momento Clinch Todd è sceso di vedetta e mi ha svegliato, borbottando che aveva eiaculato sulle sue coperte. Il vento è caduto e ci stiamo muovendo adesso a pochi nodi l'ora. 19, 20, 21 febbraio 1702. Siamo quasi in bonaccia e approfittiamo del movimento lento per pescare dal ponte. Io ho fatto abboccare uno squalo e l'arpione mi ha strappato dalle mani ed è andato perduto. Ci sembra di galleggiare su un mare di vento, come una nave dipinta. Gli umori sono tesi. Brandy e Mr. Thomas hanno avuto un alterco e ho anche pensato che finisse a pugni. 22 febbraio 1702. Oggi siamo scesi a terra, su un'isola disabitata, per prendere acqua e le provviste che riusciamo a trovare. Il capitano Jones ha avvistato un ruscello col suo cannocchiale. Abbiamo calato l'ancora in una baia di tre punti di terra, a circa 200 metri dalla spiaggia con palme da cocco dietro. Qui l'acqua è così chiara che si possono vedere i pesci nuotare a una profondità notevole. Siamo sicuri almeno di trovare noci di cocco in abbondanza. Mr. Thomas, Bert Hansen, Clinch Todd, Paco e Jerry, l'inserviente di cabina, e io siamo andati a riva in una barca carica di botticelle per l'acqua. Riempivamo le botticelle di acqua fresca e le caricavamo in barca. Todd e Paco remavano indietro fino alla nave e tornavano con le botticelle vuote. Quando si è raccolta abbastanza acqua, abbiamo riempito la barca un po' di volte con le noci di cocco. Intanto si era fatto pomeriggio. Mr. Thomas allora ci ha lasciato il resto del giorno libero per esplorare l'isola, ammonendoci di essere di ritorno alla spiaggia prima del calare del sole. Prima di tornare alla nave, ha distribuito un coltellaccio a ciascuno di noi, nell'improbabile eventualità che dovessimo incontrare animali pericolosi o indigeni nascosti. Seguendo il ruscello ci siamo arrampicati sulla vetta dell'isola, a una distanza di circa 200 metri. Dalla sommità avevamo una bella vista nell'intera isola. Il Great White, a quella distanza, sembrava un giocattolino. Al lato estremo dell'isola ci sono diverse piccole baie e insenature. Siamo scesi fino a una piccola spiaggia contornata su entrambi i lati da rocce scoscese. Qui ci siamo tolti i vestiti e abbiamo nuotato nella baia per mezz'ora, stando attenti a non avventurarci troppo al largo per paura degli squali. L'acqua è meravigliosamente calda e facile galleggiarci, del tutto diversa da quando nuotavamo nei laghi d'acqua dolce. Sentendo fame, dopo la nostra nuotata, abbiamo gettato le lenze che avevamo portato e in breve abbiamo preso una quantità di pesci sconosciuti come dentici, ciascuno dal peso di 2 o 3 libbre. 5 pesci li abbiamo fritti in padella, lasciando gli altri attaccati a uno spago attraverso le branchie nell'acqua. Questo pesce deliziosissimo l'abbiamo mangiato con le dita, accompagnandolo con il latte delle noci di cocco. Sentendo una gran sonnolenza dopo mangiato, ci sdraiamo nudi all'ombra di una roccia, Jerry con la testa sul mio stomaco e io, a mia volta, appoggiato sullo stomaco di Bert Hansen. Clinch e Paco si sdraiarono sulla schiena, fianco a fianco, con un braccio l'uno intorno alle spalle dell'altro. Il caldo, i nostri stomaci pieni e il rumore delle onde che battevano piano ci ha immersi in un leggero sonno che è durato circa un'ora. Mi sono svegliato con una fortissima erezione e ho trovato i miei compagni nella stessa identica situazione. Ci siamo alzati stiracchiandoci e facendo confronti. La brezza si stava alzando e si avvicinava al tramonto. Tirammo fuori le nostre lenze e prendemmo abbastanza pesci da formare una bella filza, facendo la nostra camminata di ritorno alla spiaggia più in fretta possibile. Jerry ci ha fatto ridere tutti, vibrando colpi con il suo coltellaccio ad alberi e rami, con ringhi feroci ed urla da pirata. Adam e Billy hanno remato fino a riva e ci hanno riportato alla nave. Le vele sono state alzate e ci siamo messi in viaggio. Mentre eravamo via, una quantità di pesci sono stati presi dalla nave e per cena abbiamo mangiato una saporita zuppa di pesce con noci di cocco grattugiate. Il grido di Jerry, mentre stavamo mangiando, ci ha fatto andare tutti sul ponte, dove abbiamo assistito a una meravigliosa visione nota come il bagliore verde, che avviene un attimo dopo il calar del sole. Tutto il cielo occidentale si è acceso di un luminoso verde brillante. Lettre de Marc. 28 febbraio 1702. Oggi siamo stati catturati dai pirati. Alle 5 del pomeriggio una nave armata, di tutto punto, ci ha affiancato, battendo bandiera olandese. Questa poi è stata abbassata e quindi si è alzata la bandiera nera dei pirati. Noi non avevamo nessun cannone, quindi resistere era impossibile e il capitano Jones ha immediatamente dato ordine di alzare la bandiera di resa. Ci siamo radunati tutti sotto il ponte, compresi i gemelli De Fuentes, che erano impassibili come sempre mentre osservavano la nave pirata con aria critica come valutarne il pregio. Subito dopo è stata calata una scialuppa che ha remato verso di noi. In piedi, a prua, c'era uno snello giovanotto biondo, con la giacca ricamata d'oro che scintillava al sole. Di fianco a lui c'era un giovane in pantaloni corti, grigi, e camicia, con una cicatrice rossa intorno al collo. La scialuppa era manovrata da quello che sembrava essere una ciurma di donne, che cantavano mentre remavano e si voltavano verso di noi a ghignare e ammiccare con le loro facce truccate. La scaletta è stata abbassata e le donne si sono arrampicate a bordo con l'agilità di scimmie e si sono appostate su tutto il ponte con moschetti e coltellacci. Mi sono accorto che erano in realtà dei giovani di bell'aspetto in abiti femminili e i loro costumi erano orientali, di seta colorata e boccolato. I due giovani poi sono venuti avanti. Quello con la giacca ricamata d'oro la teneva aperta alla vita, a mostrare il ventre magro abbronzato, un paio di pistole con intarsi in argento e un coltellaccio alla cintola. Era una figura che colpiva, capelli biondi legati in un nodo dietro la testa, lineamenti aristocratici e ben definiti. Possedeva un portamento molto signorile e modi aggraziati. Il capitano Jones ha fatto un passo avanti. «Sono il capitano Jones, comandante della Great White». «E io il capitano Strobe, comandante in seconda della Siren», ha detto il giovane. Hanno scambiato una stretta di mano molto amabile, e se il mio giudizio vale qualcosa, non sono due estranei. Mi sono subito convinto che la cattura era stata predisposta tra di loro. Strobe poi ha ricevuto le chiavi dell'arsenale. Voltandosi verso di noi, ci ha assicurato che non avevamo niente da temere per le nostre vite. Si sarebbe incaricato lui di guidare la nostra nave e ne avrebbe stabilito la rotta con i suoi uomini sotto gli ordini di Mr. Kelly. Indicò il giovane in calzoncini grigi, che era appoggiato contro il parapetto immobile come una statua, la faccia senza espressione, gli occhi grigio chiaro voltati in su verso la Sarti. Noi avremmo continuato a stare sotto gli ordini di Mr. Thomas. Alcuni ragazzi sono scesi dalla scialuppa e hanno cominciato a passare su e giù dalle sacche da viaggio. Apparentemente contenevano gli effetti personali della ciurma che ci avevano abbordato. Quando la scialuppa fu scaricata, Strobe ha accompagnato il capitano Jones e i gemelli De Fuentes alla scaletta e i due ragazzi li hanno portati alla Siren. Il capitano Strobe poi ha aperto un bariletto di rum e i ragazzi hanno tirato fuori dei boccali dalle loro sacche. Avvicinandosi a noi in un modo allusivo e insinuante, dimenando le natiche, hanno fatto passare in giro delle piccole pipe d'argilla. «Hashish, è molto buono!» Quando è venuto il mio turno di fumare, mi ha fatto tossire molto, ma presto ho sentito che un sollevarsi del morale e una vivacità di immagini della mente, insieme a un formicolio delle linguine alle natiche. Sono apparsi tamburi e flauti e i ragazzi si sono messi a danzare. Mentre danzavano si sono tolti i vestiti finché non hanno iniziato a danzare completamente nudi sopra le sciarpe di seta dai colori vivaci e sui vestiti sparpagliati per tutto il ponte. Il capitano Strobe stava in piedi sul ponte di poppa suonando un flauto d'argento e le note sembravano cadere da una stella lontana. Solo Mr. Thomas al fianco di Strobe sembrava completamente distaccato. E per un attimo la sua massiccia figura fu trasparente davanti ai miei occhi. Probabilmente un'illusione prodotta dalla droga. Mr. Thomas stava guardando la Siren attraverso il suo cannocchiale. Alla fine, avendo ricevuto il segnale che le loro vele erano a posto, ha dato ordine di alzare la vela sul Great White. Piuttosto inaspettatamente siamo riusciti a eseguire l'ordine senza difficoltà, perché l'effetto dell'hashish permette di passare facilmente da un'attività all'altra. Kelly ha dato lo stesso ordine in una lingua sconosciuta ai ragazzi che danzavano e che adesso si comportavano da uomini di mare, qualcuno nudo, qualcuno con la sciarpa avvolta intorno alle anche, mentre facevano il loro lavoro cantando strane canzoni. Così le vele furono issate in fretta e ci mettemmo in rotta, non sapevamo per dove. Alcuni dei ragazzi hanno delle amache e dormono in coperta, ma spesso siamo in due per cuccetta nel castello di prua. Poiché siamo adesso una ciurma doppia, c'è molto tempo con niente da fare e sono riuscito a sapere qualcosa della strana storia di questi ragazzi travestiti. Alcuni di loro sono danzatori del Marocco, altri vengono da Tripoli, Madagascar e dall'Africa centrale. Ce n'è qualcuno che viene dall'India e dalle Indie orientali, che è stato imbarcato su vascelli pirata nel Mar Rosso, dove depredavano mercantili e altri pirati allo stesso modo, il cui metodo di operare era questo. Alcuni si uniscono alla ciurma di una nave, vendendo i propri favori e insinuandosi in posizioni chiave. Allora la ciurma avvista un'imbarcazione apparentemente inerme, con un carico di belle donne tutte che cantano e ballano lascivamente e promettono ai marinai i loro corpi. Una volta a bordo, le donne tirano fuori pistole e coltellacci nascosti, mentre i loro complici a bordo fanno lo stesso, e adesso la Siren scopre i suoi cannoni, così che spesso la nave è catturata senza la perdita di una sola vita. Molte volte i ragazzi si imbarcano come cuochi, mestieri in cui eccellono, e poi drogano tutta la ciurma. Però si sparge rapidamente la notizia della loro operazione e adesso fuggono sia dai pirati che dalle pattuglie navali, avendo, come dicono i francesi, brûlé, bruciando la zona del Mar Rosso. Kelly mi ha raccontato la sua storia. Ha cominciato la sua carriera come marinaio sulle navi mercantili. Nel corso di una lite ha ucciso il quartiermastro, per la quale cosa fu processato e condannato all'impiccagione. La sua nave era a quel tempo nel porto di Tangeri. La sentenza fu eseguita nella piazza del mercato, ma alcuni pirati che erano presenti lo liberarono tagliandogli il cappio, lo portarono alla nave e lo rianimarono. Si pensava che un uomo che era stato impiccato e riportato in vita avrebbe non solo portato fortuna alla loro impresa, ma anche assicurato protezione contro il fato dal quale era stato salvato. Mentre era ancora privo di sensi, i pirati gli strofinarono dell'inchiostro rosso nei segni della canapa. Così sembrava che avesse una corda rossa sempre intorno al collo. La nave pirata era comandata da Skipper, un rinnegato della marina olandese, che poteva ancora far passare la sua imbarcazione per onesto mercantile battente bandiera olandese. Stroboe era il comandante, in seconda. Avevano appena lasciato Tangeri, diretti al Mar Rosso, per il capo di Buona Speranza, quando scoppiò un ammutinamento. La ciurma era in disaccordo sulla destinazione, essendo all'avviso di dirigersi alle Indie Occidentali. Inoltre nutriva disprezzo per Stroboe, considerandolo un dandy effeminato. Dopo che ebbe ucciso 5 dei fomentatori, furono costretti a rivedere questa opinione. La ciurma, ammutinata, venne poi lanciata a terra e ne fu arruolata una di acrobati e di ballerini, poiché Nordlitz aveva già studiato il modo di utilizzarli. Kelly afferma di aver appreso i segreti della morte sulla forca. Questo gli conferisce un'invincibilità di spadaccino e una tale superiorità sessuale che nessun uomo né donna gli sa resistere, con l'eccezione del capitano Stroboe, che egli considera più che umano. «Voici ma lettre de Mac», disse, passandosi le dita sul segno della corda. Il brevetto di corsa era rilasciato ai pirati dai loro governi e li autorizzava a depredare i vascelli nemici come nei combattenti autorizzati, distinguendoli così dai comuni pirati. Lettere simili spesso, ma non certo sempre, hanno salvato il latore dalla forca. Kelly mi dice che la semplice vista dei suoi segni di corda instilla negli avversari una debolezza e un terrore uguale e identico all'apparizione della morte in persona. Ho chiesto a Kelly come ci si sente a essere impiccati. All'inizio avverto un grandissimo dolore dovuto al peso del mio corpo e ho sentito i miei spiriti in grande commozione violentemente premuti verso l'alto. Dopo che ebbe raggiunto la testa ho visto una grande vampata di luce che sembrava uscirmi dagli occhi con un lampo. Poi ho perso ogni sensazione di dolore. Dopo essere stato liberato ho sentito un dolore così insopportabile per le fitte e i crampi mentre il sangue e gli spiriti mi ritornavano che ho desiderato che quanti mi avevano tagliato la corda fossero impiccati. Il lettore potrà domandarsi come io possa trovare il tempo di scrivere questo resoconto durante un viaggio per mare in un affollato castello di prua. La risposta è che ho fatto delle brevissime annotazioni ogni giorno, con l'intenzione di ampliarle più tardi. Adesso ho ogni giorno 2 ore libere per ricostruire da queste note una narrazione, poiché Stroboe mi ha messo a disposizione una scrivania e materiale per scrivere, avendo per qualche motivo interesse a stampare il mio resoconto. Ogni sera tutti i ragazzi si svessono e si lavano con secchi di acqua di mare. Quindi hanno luogo diversi giochi e competizioni sessuali. In uno di questi giochi ciascun ragazzo mette un pezzo d'oro sul ponte e il primo a eiaculare vince l'oro. Ci sono anche gare a distanza. Poiché c'è abbondanza di polvere e palle di cannone a bordo, c'è stata qualche gara con pistole e moschetti. Io ho vinto qualche pezzo d'oro, stando attento a non superare Kelly, pur essendo sicuro che avrei potuto farlo. Sento che potrebbe dimostrarsi un nemico molto pericoloso. Ci sono molte cose qui che non capisco per niente. Sei sotto, eroina? Di ritorno a New York, chiamo i Green dal mio attico. Ci ho messo $5,000 di misure di sicurezza in questo spazio. Le finestre sono di vetro, infrangibile con sbarre ruotanti. La porta è 2 pollici di acciaio massiccio, proveniente da un cavò. Dà un senso di sicurezza, come essere in Svizzera. Mr. Green può vedermi subito. Mi dà un indirizzo in Spring Street, attico borghese, grande cucina moderna, gatto siamese e piante. Mrs. Green è una donna bellissima, capelli rossi, occhi verdi, sguardo distante e sognante. Noto i libri Viaggio fuori dal corpo, scoperte psichiche oltre la cortina di ferro di Castaneda. Mr. Green mi prepara un Chivas Regal. Metto in chiaro subito la mia posizione. Investigatore privato. Nessuna autorità per fare un arresto. Posso solo passare le prove alla polizia locale. Francamente, in questo caso non posso vantare molte speranze di ottenere un arresto, figuriamoci una condanna. No, ma vogliamo lo stesso rinnovarle l'incarico. Ma perché esattamente? Ma vogliamo sapere la verità, disse Mrs. Green. Che gli assassini possano essere portati in tribunale oppure no. Io tiro fuori il questionario con i trascorsi medici di Jerry. Qui dice che Jerry ha avuto la scarlattina all'età di 4 anni. Sì, è vero, abitavamo a St. Louis allora. E chi era il dottore in questione? Il vecchio dottor Greenbaugh, abitava di fianco a noi. È ancora vivo? No, è morto 10 anni fa. Ma per caso ha fatto lui la diagnosi? Sì. Si sentirebbe di dire che era competente nelle sue diagnosi? Non proprio, disse Mrs. Green. Ma perché è importante? Sembra che Jerry abbia avuto un attacco di scarlattina o qualcosa di simile poco prima di essere ucciso. Mi rivolsi a Mrs. Green. Si ricorda per caso i particolari? Come è cominciata la malattia? Beh, sì. Era un giovedì e avevamo fatto una passeggiata con una governante inglese che avevamo allora. Quando è tornato era febbricitante e aveva i brividi ed eruzioni cutanee. Ho pensato che fosse morbillo e ho chiamato il dottor Greenbaum. Lui disse che non erano macchie di morbillo. Che probabilmente era un caso lieve di scarlattina. Ha prescritto dell'euromicina e la febbre se n'è andata in pochi giorni. Ma Jerry ha mai delirato durante questa malattia? Beh, sì, effettivamente ha delirato. Sembrava molto spaventato e parlava di animali sulle pareti. Si ricorda per caso che animali, Mrs. Green? Ha nominato una giraffa e un canguro. Non ricorda niente altro? Sì, disse dopo una pausa. C'era un odore. Un odore strano nella sua camera, una specie di odore di muschio, come in uno zoo. E il dottor Greenbaum ha fatto commenti su questo odore? No, credo che avesse un raffreddore. Lei lo ha notato però, Mr. Green? Beh, sì, ero nelle lenzuola e nelle coperte quando l'abbiamo mandato in lavanderia, esattamente come è stato ucciso Jerry, Mrs. Snide. Non riesco a capire. Una massiccia overdose di eroina. Ma lui non era... No, non era un tossicomane. E la polizia greca è convinta che l'eroina non se la sia somministrata da sé. Ha qualche idea del perché sia stato ucciso? Non ne sono del tutto sicuro, Mr. Green. Potrebbe essere un caso di scambio di persona. Quando andai in ufficio il giorno dopo, il mio assistente Jim Brady c'era già, arrivato dritto dall'aeroporto. È molto snello, 1,80 m, 80 kg, un irlandese molto scuro. In realtà ha 28 anni, ma ne dimostra malapena 18, e spesso deve mostrare la sua carta d'identità per farsi servire nei bar. Mi porse un pacco proveniente da Atene, una fotografia, e un messaggio da Dimitri battuto a macchina su carta gialla in stile telegrafico. Ho trovato villa dove Jerry Green fu ucciso, stop. Sul continente 40 miglia da Atene, stop. Testa ancora mancante, stop. Villa affittata attraverso agenzia viaggi, Londra, stop. Nomi falsi, stop. Firmato Dimitri. La foto mostrava una stanza dal soffitto alto con le travi a vista. Su una trave c'era un pesante gancio di ferro per lanterne. Dimitri aveva fatto un cerchio di inchiostro bianco intorno al gancio e ci aveva scritto sotto tracce di fibra di corda. «Ha telefonato un certo Mr. Everson», disse Jim. «Suo figlio è scomparso, gli ho dato un appuntamento». «Dove è scomparso il figlio?» «In Messico, un archeologo Maya, scomparso da 6 settimane. Ho mandato il questionario a Mr. Everson e gli ho chiesto delle foto del ragazzo». «Bene». Non avevo nessuna particolare simpatia per questo caso, ma mi portava nella direzione in cui volevo andare. Di ritorno al mio attico decidiamo di tentare un po' di magia del sesso. Secondo un dogma paranormale, il sesso in se stesso è un pretesto e deve essere subordinato all'intento del rituale. Ma io non credo alle regole. Quello che capita, capita. L'altare è preparato per un rito egizio fissato per il tramonto, che è tra 10 minuti. È una lastra di marmo bianco larga circa 1 metro. Segniamo i punti cardinali. Un giacinto in un vaso per la terra, nord. Una candela rossa per il fuoco, sud. Un vaso di alabastro pieno di acqua per l'acqua, est. Un glifo d'oro su pergamena bianca per l'aria, ovest. Poi mettiamo i glifi per il rito, d'oro su pergamena bianca, sul muro ovest, dato che questo è un rito del calar del sole e siamo voltati verso l'ovest. Inoltre mettiamo sull'altare una tazza di acqua, una tazza di latte, un porta incenso, essenza di rose e un ramoscello di menta. Dopo aver preparato tutto, ci mettiamo nudi come mamma ci ha fatto e ce l'abbiamo duro ancora prima di toglierci i vestiti. Io prendo una bacchetta d'avorio e traccio un cerchio intorno ai nostri corpi mentre tutti e due intoniamo traduzioni del rito, leggendo dai glifi sul muro. Che gli splendenti non abbiano potere su di me. Jim lo legge come un rosario e ci mettiamo a ridere tutti e due. Ho purificato me stesso. Prendiamo dell'acqua dalla tazza e ci tocchiamo la fronte. Mi sono unto con unguenti. Versiamo lo speciale unguento da un vaso di alabastro, toccando la fronte, l'interno dei polsi e la base della spina dorsale, visto che il rito avrà un climax sessuale. Io porto a voi profumo e incensi. Aggiungiamo ancora dell'incenso, qualche goccia di olio e di rose e un pizzico di benzonio del bruciatore. Rendiamo omaggio in quattro punti ai cardinali mentre invochiamo Set al posto di Ketan Mentu, visto che questo è in un certo senso un rituale di magia nera. E adesso l'ora esatta del tramonto e rendiamo omaggio a Tem, visto che Ra, quando tramonta, prende questo nome. Facciamo abluzioni di acqua e latte ai quattro punti cardinali, immergendo un ramoscello di menta nelle tazze mentre invochiamo gli splendenti elementali. È adesso il momento del climax rituale, in cui gli dèi possiedono i nostri corpi e l'intento magico è proiettato nel momento dell'orgasmo e visualizzato come una cascata di oro liquido. Il mio fallo è quello di Amsu. Mi chino in avanti e Jim mi strofina l'unguento su per l'ano e fa scivolare dentro il suo pene. Un rombo nelle mie orecchie mentre immagini e nastri mi vorticano nel cervello. Figure ombrutali sorgono al di là della luce candela. Una visione di forche e città incendiate come in Bosch. Set, Osiride, odore di mare. Jerry appeso nudo alla trave. Un dolce putrido rosso odore di muschio e metallo vortica intorno ai nostri corpi, palpabile come una foschia, e quando comincio a eiaculare la stanza diventa sempre più chiara. All'inizio credo che le candele abbiano alzato la fiamma, e poi vedo Jerry lì, nudo, in piedi, il corpo che irradia luce. C'è un ghigno da scheletro sul suo volto, che svanisce nell'enigmatico sorriso delle statue degli arcaici giovani greci, e poi si trasforma in Dimitri, con un'espressione divertita ed enigmatica. Così mandiamo gli splendenti a casa loro e noi ce ne andiamo a letto. «Perché credi che gli abbiano tagliato la testa?» chiede Jim. «Bah, è un'ovvia ragione. Per confondere la causa della morte, nel caso che il corpo venisse trovato. Ma loro non credevano che il corpo sarebbe stato trovato. C'era qualche scopo speciale che avevano in mente, usando sia la testa che il corpo. Disegni di teste di scimmia trapiantate mi balenano davanti agli occhi. Dove pensi che sia la testa adesso? Bah, la testa sicuramente è a New York. I'm not like them, but I can pretend. The sun's gone, the heavy light. The day's done, I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy. Happy. My heart is broke, I have some blue. Help me heal, mend it with you. We'll float around, hang out on clouds. Then we'll come down, have a hangover. Have a hangover. Have a happy. Think I'm just happy. grazie ai Nirvana, grazie a Kurt Cobain, grazie a William Burroughs. Andiamo avanti con questo lunghissimo libro che ci accompagnerà quasi sicuramente fino alla fine di agosto. E io intanto ricevo messaggi tipo: bello sto libro, c'è anche la versione per bambini con i disegnetti. Sì, in realtà io mi scuso per il linguaggio abbastanza colorato che porta William Burroughs, però cioè, la sua storia è molto particolare. Poi sicuramente faremo un focus sulla sua biografia e su tutte le avventure e i trascorsi che ha passato nella sua vita, e quindi perdonate per il linguaggio a volte scurrile. Magari tenteremo di spostare letture ad un orario un po' più consono per quello che è il linguaggio forbito, oppure no. Seguite Radio ZM, ci sentiamo più tardi per un sacco di musica a rotazione, sicuramente altri programmi, sicuramente Zona Rossa domani sera. Buona settimana a tutti e ci sentiamo con letture per martedì prossimo.